Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Rifarei in questo preciso momento le valigie e ripartirei per l'Erasmus. L'esperienza in Erasmus mi ha annullato le paure, annullato i confini che avevo, perché mi ha fatto anche capire che l'Europa alla fine non è così grande. A un certo punto ho capito che nessuno aveva scritto la mia vita e avrei dovuto prenderla nelle mie mani e scriverla da me. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Un'introduzione a sfondo Erasmus, quella che vi regaliamo oggi col video Life in Motion, documentario per raccontare la generazione Erasmus, progetto che intende spiegare come la mobilità europea e internazionale sia da considerarsi un vero e proprio stile di vita che caratterizza sempre di più i giovani pronti a partire in cerca di nuove esperienze. Con questa fortissima iniezione di internazionalità partiamo alla volta della Germania, che farà da sfondo a questa puntata, la penultima della stagione 2014-2015 di Giovani Talenti. La frase della settimana è copyright di Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. La corruzione tiene lontano dal nostro paese i talenti migliori e i capitali stranieri, dice Cantone. Quando si mette in campo la corruzione, si mette in discussione uno dei valori principali della democrazia, la concorrenza. Vincere gli appalti utilizzando un sistema illecito non favorisce l'innovazione. E per Cantone la corruzione è il più grande blocco per un paese. Un imprenditore che utilizza la corruzione non assume i migliori, ma gli amici degli amici. Deve farlo per mantenere il suo sistema in piedi. Questo fa sì che i giovani saranno costretti ad andare via per dimostrare di essere bravi. A questo si aggiunga che l'Italia fatica ad avere un capitale umano all'altezza dei suoi competitors. Il World Economic Forum ha recentemente pubblicato il primo rapporto interamente dedicato alla capacità di un paese di far crescere i talenti attraverso istruzione, sviluppo e utilizzo delle competenze. Il risultato per la penisola non è lusinghiero: siamo 35esimi su 135 paesi e siamo al 118esimo posto per disoccupazione giovanile. Lo riferisce il Sole 24 Ore Scuola. Per Eurostat, in Italia meno della metà dei laureati risulta occupato entro i 3 anni dal conseguimento del titolo. Una percentuale di quasi 30 punti inferiore alla media europea, fa peggio solo la Grecia. E in tema di capitale umano, forse sarebbe anche ora di smetterla di formare laureati di eccellenza per poi regalarli ad altri paesi, soprattutto se all'uscita dal percorso formativo succede questo nel nostro mercato del lavoro. Come numero di offerte c'eravamo, insomma ne ho ricevute parecchie. Il problema, insomma, è che mancavano appunto di qualità, di innovazione, non mi sembravano, ecco, allettanti. Alberto Bandettini, 30 anni, è un consulente per il mobile commerce a distanza in Germania. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Italia sempre è meno attraente per gli stranieri. Secondo le ultime stime Istat, gli iscritti in anagrafe provenienti dall'estero sono stati quasi 280.000 lo scorso anno, in costante calo. Poco meno di 30.000 gli italiani rientrati dopo un periodo di emigrazione oltre confine. Al contrario, coloro che hanno lasciato il nostro paese sono stati 136.000, di cui 90.000 di nazionalità italiana. Rispetto agli anni precedenti diminuiscono dunque gli immigrati e aumentano gli emigrati, con un saldo tra flussi in entrata e in uscita pari a 140.000. E i giovani del sud sono i nuovi emigranti. L'84% dei ragazzi meridionali si dichiara disposto a trasferirsi ovunque pur di trovare impiego, anche se le offerte arrivassero dall'estero. Uno su due espatrierebbe. Questi i risultati di un sondaggio contenuto nel rapporto Giovani. Secondo l'indagine, la disponibilità a emigrare cresce parallelamente al titolo di studio. Un laureato su due varcherebbe il confine. Belgio è una meta in ascesa per gli italiani. I connazionali registrati nel paese nel 2011 sono stati oltre 5.000. Il flusso annuo è raddoppiato nell'arco di un solo decennio. Secondo lo studio della Comune del Belgio, nella maggior parte dei casi si tratta di lavoratori qualificati. Il 75% era precario in Italia. La molla che ha spinto l'85% ad andare via è stata la ricerca di un nuovo impiego. E l'Australia resta un paese di moda nell'espatrio. Secondo il settimanale Panorama, che recentemente vi ha dedicato una copertina, tra 2013 e 2014 sono stati ben 32.000 i giovani italiani che l'hanno scelta come meta in cerca di occupazione e di una vita diversa. Gli italiani in possesso di un visto di residenza sono oltre 20.000 e il numero continua a crescere. cominciano a fare un po' di conti sugli espatri anche le testate di informazione locali. Per l'Unione Sarda oltre 6.000 persone l'anno lasciano l'isola per cercare lavoro altrove. Reggio Online segnala invece come 2.600 reggiani abbiano spostato negli ultimi 6 anni la residenza all'estero, ma si tratterebbe di oltre 10.000 se consideriamo gli emigrati che non si sono iscritti all'AIRE. Infine, secondo Tuscia Web, la provincia di Viterbo ha visto un incremento delle partenze del 326% in 6 anni. I giovani italiani disoccupati e laureati tra i 25 e 34 anni rappresentano il 16% sul totale, con un tasso di disoccupazione cresciuto del 46% in un quadriennio, salari scesi del 20% e un aumento della disoccupazione di lunga durata, dei contratti a tempo determinato e della cosiddetta over education, cioè di una formazione superiore a quella richiesta per l'impiego. I dati sono della ricercatrice Chiara Binelli dell'Università di Southampton. I laureati disoccupati vivono un livello di precarietà mai visto prima. In questo contesto ci sono iniziative che puntano a stimolare percorsi formativi per i giovani per dare loro opportunità e futuro in un paese dalla scarsissima mobilità sociale. Uno di questi progetti si chiama Common Goods, ne parliamo con la fondatrice Antonella Vitale. Non è una terra delle opportunità, il nostro obiettivo è proprio questo, cioè non lavorare solo sui più bravi, sulle eccellenze, ma dare questa base al maggior numero possibile di giovani, che gli permetta quindi di essere a un livello superiore di quello che è la media oggi italiana e quindi evitare che cerchino opportunità da altre parti, ma che siano in Italia, con proprio questa logica di creare una nuova generazione di giovani con una cultura diversa. In questo modo anche chi non ha tutti i legami, gli appoggi, le conoscenze potrà emergere. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta qualche centinaio di chilometri a nord. Il paese dove ci trasferiamo oggi, anche se solo per mezz'ora, è la Germania, e lo facciamo per parlarvi in primis di capitale umano. Nome: Alberto. Cognome: Bandettini. Età: ho 30 anni. Città di origine: Lucca. Studi: Computer Science and Networking alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2012. Per andare dove? In Canada. Perché? C'era un'offerta interessante. Quale lavoro svolge attualmente? Sono consultant per Vodafone in Germania. Dove? A Düsseldorf. Tornerai? Lo spero. Deluso di più è il mondo del lavoro italiano. Dall'Italia non ho ricevuto alcuna offerta di impiego interessante in termini di innovazione o niente che potesse permettermi di sfruttare tutto ciò che avevo studiato duramente all'università. Partiamo da qui, da quello che c'è scritto, Alberto. Cosa manca in termini unicamente di qualità alle offerte del mercato del lavoro italiano? Ho ricevuto diverse offerte di lavoro, le ho vagliate e ho notato più che altro che non erano molto allettanti. Ecco, andiamo appunto a parlare ad esempio in termini economici di stipendio, di quanto sono inferiori rispetto alle offerte dall'estero. Siamo nella Champions League degli stipendi per attrarre soprattutto talenti o riattrarre i nostri migliori espatriati? Non credo, insomma, che ad oggi l'Italia possa riattrarre, insomma, gli italiani all'estero oppure, insomma, qualcuno dall'estero. Nella mia esperienza in Canada, insomma, posso dire che un intern che, insomma, è sostanzialmente ricopre un ruolo di stagista nel mondo italiano, insomma, può percepire sui $4,000 al mese. $4,000 canadesi al mese da stagista? $4,000 canadesi al mese. Sì, poi anche la possibilità sostanzialmente di incrementare e in caso per esempio di straordinari, e si parla, insomma, di 7 ore e mezzo al giorno. A quel punto chiaramente il confronto diventa abbastanza difficile. Credo di sì. Tra poco chiariamo meglio, anche perché abbiamo cominciato con queste domande raccontando che c'è un'eccellenza italiana nell'istruzione capace di produrre veri e propri talenti a rischio però di espatrio. Partiamo con i tuoi studi: triennale in informatica alla Facoltà di Scienze, poi specialistica a Pisa in Computer and Science Networking. Quale passione ti ha spinto in quella direzione? La decisione iniziale, quella, insomma, che ho preso a 16 anni, si è basata un po' sul sentimento, chiamiamolo popolare, che, insomma, l'informatica fosse il futuro. È molto importante spiegare in quale contesto hai svolto i tuoi studi. Il corso di specializzazione lo hai fatto all'Università di Pisa in congiunzione con una delle nostre istituzioni di eccellenza, la Scuola Superiore Sant'Anna, un corso completamente in inglese. Che giudizio dai a posteriori di questa esperienza? Molto notevole e molto positivo, insomma, lo consiglio vivamente a chi vuole un'alta formazione che combina aspetti di informatica con aspetti ingegneristici. Ecco, non l'avresti scambiata con un biennio all'estero di studio? studi, per intenderci? No, anche perché insomma avevo già famiglia, sostanzialmente volevo rimanere in Italia, avevo già un bambino. Ti laurei con 110 lode, primo studente in Italia a finire questa specializzazione, sottolineiamolo, insieme ad altri due colleghi. È interessante raccontare che strada hanno però preso i tuoi colleghi, dove sono? Entrambi hanno avuto una breve parentesi di lavoro in Italia, poi entrambi hanno seguito il percorso del dottorato. Uno ora è all'Imperial College di Londra, l'altro è rimasto a Pisa. Ci sono anche altri esempi notevoli, un altro collega è alla Columbia University a New York, un altro insomma a Google. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Alberto Bandettini, 30 anni, consulente per il mobile commerce in Germania. Alberto ha alle spalle una formazione di eccellenza in Italia nel settore informatico, ma ha dovuto lasciare la penisola una volta appurata la scarsa qualità delle offerte di impiego. Per lui prima un'esperienza in Canada, poi ritorno in Europa ma su suolo tedesco. A noi non resta che una fondamentale domanda: il nostro tessuto produttivo è in grado di accogliere le eccellenze che le nostre università, pur tra mille difficoltà, formano oppure no? Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Fermiamo un attimo le lancette dell'orologio. Neolaureato, appena uscito da una delle nostre istituzioni di eccellenza, qualcuno, in un paese normale, immaginerebbe la tua casella email intasata di offerte di lavoro. Cosa ti ha offerto invece l'Italia? È vero soprattutto che più o meno la media a cui potevi aspirare erano lavori da programmatore? Diciamo che come numero di offerte c'eravamo, insomma ne ho ricevute parecchie. Il problema insomma è che mancavano appunto di qualità, di innovazione, quindi non mi sembravano allettanti, o almeno non combaciavano con il corso di studi che avevo fatto. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Solo i 3 mesi dal titolo ho accettato di muovermi con la famiglia a Toronto, in Canada, dove mi veniva offerto un posto di lavoro nel gruppo tecnico di un importante e innovativo progetto presso la Rogers, il più grande mobile network operator canadese. Cosa ti offrirono concretamente per convincerti a trasferirti oltreoceano? Più che altro mi hanno offerto una concreta possibilità di fare qualcosa di innovativo, e nello specifico era quello insomma di rivoluzionare il mondo dei pagamenti, una cosa quindi... È molto importante, ti interrompo anche perché mi è piaciuto quello che hai detto, qualcosa di innovativo, al di là dello stipendio, al di là di altri parametri, esatto. Quello che ti interessava era poter fare la differenza in un settore che farà la differenza, ed è anche per questo che ti chiedo allora di raccontare brevemente questo settore in cui lavori, perché apriamo a questo punto una prospettiva di futuro che già esiste: i pagamenti virtuali via cellulare. Cos'è questa rivoluzione tecnologica, Alberto? Direi che sostanzialmente è un passo nel continuo evolversi insomma del mondo dei pagamenti. Siamo passati dai contanti alle carte di credito o debito, e ora siamo arrivati sostanzialmente a versioni virtuali da installare sul telefono. Come giudichi a posteriori la tua esperienza di lavoro e di vita in Canada? È un paese delle opportunità? È un paese molto bello, molto civile, dove si sta bene. Devo dire che in termini di impiego e di immigrazione però le cose sono molto controllate, quindi se una persona vuole andare a lavorare laggiù deve sostanzialmente ricoprire un ruolo che fa bene al paese. Infatti non è così semplice, ricordiamo, il Canada ha delle maglie molto strette. Dopo 2 anni e mezzo la decisione di tornare in Europa. L'ho fatto per condividere la conoscenza appresa nello sviluppo di queste soluzioni, così motivi la scelta. La domanda però viene immediata: perché l'Europa e non l'Italia? L'offerta era per la Germania, quindi sostanzialmente mi sono mosso in Germania. Devo dire che l'Italia sta ricoprendo un ruolo ugualmente, o almeno ci sta provando anche in questo campo, ricopre però per quanto posso vedere un ruolo marginale, mentre qua si progetta e si realizza la soluzione e si segue il progetto dall'inizio alla fine, l'Italia ricopre solo un ruolo alla fine del progetto proprio per la messa in campo. Basti ricordare Alberto che all'inizio degli anni 2000 eravamo tra i capofila nell'innovazione dei cellulari e ora siamo marginali purtroppo. Per quanto posso vedere in termini di mobile payments, sì. Il punto di atterraggio stavolta è Düsseldorf, Germania, nel ruolo di consulente esterno di Vodafone. Di cosa ti occupi esattamente, Alberto? Mi occupo della progettazione e dell'integrazione insomma di tutti i sistemi componenti necessari per generare carte di credito virtuali e poi installare sulla SIM dei telefoni in modo che le persone possono pagare. Per te la nostra domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire? Vedo l'Italia insomma come ad oggi come il posto degli affetti, non sicuramente un posto dove potrei andare a vivere, perché insomma allo stile di vita che mantengo fuori è sicuramente diverso. Ci raggiunge ora in linea Andrea Sapienza, delivery manager per un'importante multinazionale delle telecomunicazioni, sempre in Germania. Buon pomeriggio, Andrea. Ciao. Allora, con te apriamo un interessante spaccato parlando di chi ha lavorato tra Italia e Germania. Partiamo però commentando la storia di Alberto. Quando ci siamo sentiti al telefono per preparare la puntata, mi hai detto molto sinceramente: guarda che Alberto è davvero un talento. Ti chiedo, che dire allora di un paese, l'Italia, che dopo averlo formato ai massimi livelli, se lo è fatto sfuggire? Dove abbiamo sbagliato? Ma sicuramente non nello sviluppo di competenze, perché Alberto, come altre persone qualificate, hanno trovato ottime opportunità di lavoro all'estero. Quindi direi che piuttosto il problema è il mercato del lavoro, che offre sicuramente meno spunti interessanti da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista qualitativo, secondo me. La tua storia in breve: laurea in ingegneria elettronica alla Sapienza, poi una sfilza di lavori per te tra Italia ed estero, ed è interessante quanto ci scrivi. Le condizioni di lavoro relativamente alla decade degli anni 90 sono completamente cambiate. All'epoca l'effetto della globalizzazione non era ancora presente. Ti chiedo, Andrea, come hai visto mutare le condizioni di impiego per i giovani in Italia proprio a causa della globalizzazione? In sintesi, siamo vincitori o perdenti noi italiani? Direi perdenti, nel senso che non vorrei sembrare pessimista, ma quando mi sono laureato io praticamente ho avuto 3 opportunità in grandi aziende con contratti a tempo indeterminato, che erano ai tempi Ericsson, Alcatel e Telecom. Oggi vedo che i neolaureati spesso hanno contratti a tempo determinato e devono faticare prima di poter avere un lavoro di qualità. Se guardo il settore di telecomunicazione, alla fine molte delle aziende di telecomunicazione hanno ridotto gli investimenti in ricerca e sviluppo e si sono concentrati sulla parte commerciale ed operation. E infatti, quando poi alla fine diventi un paese di parte commerciale, purtroppo lo sviluppo, l'innovazione e la modernizzazione vanno da un'altra parte. E infatti per te l'anno di svolta è il 2013, quando la Nokia chiude lo stabilimento di Catania dove lavoravi. Avevi 50 anni, trovi un contratto a tempo determinato in Sicilia, poi, come rilevi, le uniche opportunità che ti pervenivano erano una parte di multinazionale all'estero. Forse perché le opportunità non sono neanche lontanamente paragonabili tra Italia e Germania? Quando sono uscito da Nokia e ho preso un contratto a tempo determinato, il mio stipendio si è dimezzato e quindi per me è stata quasi una scelta obbligata cercare un nuovo lavoro, e le offerte che ho avuto in Italia erano sempre a contratto determinato, e per me che avevo 50 anni e famiglia, spostarmi in un'altra città sempre con contratti precari non era una soluzione fattibile. Quindi ho guardato all'estero, ho avuto 3 proposte concrete, una in Danimarca e 2 in Germania, e alla fine ho scelto di venire qua a Düsseldorf. Ed è interessante, non conta alla fine l'età ma le competenze, perché l'hai detto tu, avevi oltre 50 anni. Ma alla fine è chiaro che per chi è giovane è più facile trovare lavoro in generale, però ho avuto opportunità di lavoro in Germania, e questo sicuramente è dovuto al fatto che il mercato cerca professionalità. Grazie ad Andrea Sapienza. Abbiamo la domanda di rito di chiusura per Alberto Bandettini: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Un'esperienza all'estero è in ogni modo, insomma, indipendentemente dalla situazione del paese di partenza, un qualcosa che fa sicuramente bene, insomma, alla crescita personale. Per un giovane, insomma, un po' per tutti, credo sia importante scoprire, insomma, cosa c'è al di là delle proprie mura. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un funzionario per gli affari economici alla UNESCAP, Commissione ONU per Asia e Pacifico, sede di lavoro a Bangkok, scadenza per i CV 30 giugno, info su un.org. Un web developer per lo European Bioinformatics Institute di Inkston, Gran Bretagna, scadenza per i CV 28 giugno, info su embla.org/jobs. Infine, una posizione da postdoc in fisica del laser all'Università di Lund in Svezia, scadenza per il CV 31 luglio, info su physics.lu.se. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi ci spostiamo dalla Germania ancora più a nord, fino in Norvegia, un paese considerato ricco e benestante all'interno del nostro continente. Cerchiamo però di capirne di più e capire soprattutto quali opportunità possa fornire ai nostri immigranti, insieme a Camilla Bonetti, ideatrice del seguitissimo blog Norvegiani. Norvegiani è nato ormai 3 anni fa, quando mi sono trasferita a Bergen, ed è nato come un progetto, come dire, individuale, nel senso che volevo raccontare ai miei amici, alle persone che conoscevo, la Norvegia così come era vivendo sul posto, perché comunque mi sono resa conto che le informazioni che abbiamo sulla Norvegia e sul Nord Europa in generale sono molto scarse. È interessante capire da te se ci sono molti italiani o giovani italiani in Norvegia. Sì, direi che la Norvegia negli ultimi anni ha avuto un picco a livello di italiani che l'hanno scelta come destinazione. Ho trovato molte storie di successo tra gli italiani che ho incontrato, ma anche molta delusione. Molti italiani arrivano in Norvegia con delle aspettative troppo elevate o comunque poco realistiche rispetto al paese che in realtà incontrano una volta arrivati. Che profili hanno? Diciamo che nella maggior parte dei casi ho incontrato molti neolaureati disposti anche a lavori umili pur di trovare uno stipendio e una condizione di vita migliore di quella italiana. E poi ho trovato anche una serie di professionisti invece di 40 anni e anche di più, che si sono reinventati al nord, continuando però la carriera professionale cominciata in Italia. Quali sono i settori dove trovano maggiormente occasioni professionali? Beh, cadendo nei cliché, il settore primo per gli italiani è quello della ristorazione e dei servizi. Per quanto riguarda invece gli italiani più qualificati, si punta soprattutto al settore energetico. E le aree dove si concentrano maggiormente gli italiani in Norvegia? Direi, Oslo. Poi c'è una comunità italiana molto grande anche a Bergen e, a quanto mi hanno detto, a Trondheim. Per maggiori informazioni potete cliccare su norvegiani.wordpress.com. Un motivo per restare o tornare. Dopo un triennio di flessione, lo scorso anno è tornato a crescere il numero di nuove imprese in Italia, 275.000, in aumento del 2-3% rispetto al 2013. Sempre di più gli imprenditori che lanciano il primo progetto imprenditoriale, 171.000 è il numero di startup innovative, più 36%. E quanto emerge dall'osservatorio CERVE d'Italia Startup sull'imprenditoria in Italia? Per Unioncamere, a scommettere sul futuro con un'idea di impresa sono sempre di più i giovani, col sud in testa e il nord-est in coda, un'ampia quota di neoimprenditori immigrati e la vocazione per le nuove tecnologie. Tra gennaio e marzo 2015 il saldo è stato positivo, 16.000 in più. Intanto è pronto il decreto ministeriale per concedere finanziamenti agevolati pari a 150 milioni l'anno a favore dell'imprenditoria giovanile e femminile. Infine, nasce il portale nazionale dedicato ai finanziamenti pubblici a sostegno delle startup, warrantgroup.it/startup. Per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Piani di Vita, dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di giugno. Quali sono i vostri piani per l'autunno? Andare via? Restare qui e provarci? O più semplicemente siete ancora in dubbio? Vi vedete in fuga? Resistenti o globali? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, candidatevi. Cerchiamo voi, giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Sarà l'ultima puntata stagionale e sarà una puntata assolutamente speciale. Promesso, un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.